hai detto in un istante, vado via, ed io che non capivo, poi la porta che hai socchiuso piano, ed io dentro al buio, io che ancora t'amo, chiudo gli occhi. E come un condannato mi lascio andare al volo del ricordo, rivedo tratti della nostra vita, tutto mi fa male adesso che è finita, l'amore non è come il vento che soffia da sé, l'amore non è come il tempo che scorre per sé, l'amore non è un'abitudine senza un perché, per vivere amore bisogno ancora d'amore, l'amore non è niente più di quello che è. E conto i baci che non ti ho dato, le carezze che mi son tenuto, ed ogni abbraccio che ti ho negato, t'ho spenta poco a poco, e tu in un minuto, soltanto adesso io ti incoraggerei, soltanto ora io ti consolerei, e i mille fiori che non ti ho comprato ti vorrei portare, ma tu non ci sei, lontano da te solo polvere al vento sarò, io senza di te come un gatto randagio vivrò, io l'ultima ora di luce che il buio fa su, non so se è più grande il dolore oppure la paura, credevo d'amarti ed invece amare non so, credevo d'amarti ed invece amare non so.